9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Zoo comunale. Erano 32 i candidati che erano stati o arrestati o indagati in Sicilia, eccetera. Ebbene, malgrado successo il Movimento 5 Stelle, 5 ce l'hanno fatta. I loro nomi ve lo dico con i capi di imputazione: Girolamo Fazio, PDL, che è stato condannato a 4 mesi per violenza privata; Francesco Cacio, PDL, accusato di omissione di atti di ufficio; Giuseppe Giannuso, MPA, coinvolto in inchiesta di scommesse e interessi mafiosi; Salvino Caputo, PDL, condannato per tentato abuso d'ufficio e falso ideologico; Giuseppe Picciolo, il nome qualcosa vogliono dire, MPA, indagato per stipulazione di reato e calunnia. Come vedete, le cose cambiano. Beh, mica tanto. Io? No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, Lombardo Junior con i suoi begli occhi tenebrosi azzurri, eletto deputato con i voti regalati da papà, perché il rampollo del governatore uscente, che è uno studente di 24 anni, prenderà i 9.000 euro al mese del Parlamento siciliano, un Parlamento del quale tutti abbiamo fatto finta di non vedere, che è tecnicamente fallito. 17 miliardi di avanzi vanta, che anche un ragioniere in 4 ore direbbero che sono falsi, infondati. La Sicilia è tecnicamente fallita, ma il figlio di Lombardo la sta. Ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io, titola Repubblica, la divisione all'interno del PDL, lanciate le primarie, rivolta PDL contro Berlusconi, i deputati si schierano con Alfano, solo in 30 restano col cavaliere, 300 con il segretario, il mio commento, erano 300, erano giovani e morti! Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. E intanto spuntano i fondi ai transfughi, quelli con i quali poi PDL comprava le sue maggioranze in Parlamento. Così il partito ha finanziato Scilipoti, perché il bilancio del PDL rivela contributi per oltre 2 milioni di euro, aiuti anche agli ex comprati dal centro-sinistra Melchiorre e Tanoni. Come si dice? Voti in vendita! Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io! No, no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, cari amici, buona giornata, buon mercoledì 31 ottobre. E da questo punto di vista vi sono notizie anche sul giornale di oggi al quale non si sa se credere. Per esempio, la moglie di Bersani ha detto o non ha detto, pizzicata da un vigile, lei non sa chi sono io, come sostengono la settimanale Chi, è naturalmente smentita, querelante, ma saperlo. Auguri intanto a chi fa il nome Lucilla, chi fa l'onomastico oggi. E poi credere a queste nuove promesse, per esempio una volta di Marchionne che dice: ma no, noi non taglieremo nessuno stabilimento, investiremo nuovi modelli per ogni stabilimento. Cos'è, la terza, la quarta volta in tutti questi anni che vengono comunicati? Certo, è un bene apprendere che comunque niente si chiude, che significa cassa in deroga per chissà quanti anni, perché questo è l'andazzo. Ci credete voi? Ma che devo dire io? E poi Renzi che dice: ci sono solo io oramai tra Grillo e tutto il resto. E se perde Resta, che cosa succede di tutto questo? Lui che pure ha portato quasi 5 punti in più al PD nei sondaggi, grazie alle sue primarie. Dice Pietrocchino, ci sono 9 buone ragioni per votare Renzi alle primarie. Io devo dire la verità, ho sempre apprezzato il modo in cui Renzi ha impostato la questione delle primarie e la discontinuità. E però, pur tuttavia, uno che dice che se dovesse vincere Vendola, al netto dei 20 mesi che la procura chiede a Vendola di comminare in giudizio in primo grado, però al netto di tutto questo, se poi Renzi resta in un posto dove è indifferente che vinca lui con le sue idee no alla patrimoniale o vinca Renzi con le sue idee del sì alla patrimoniale, mi rendete conto che sono regole un po' singolari quelle di chiedere alla gente di partecipare a primarie in cui ciò che conta è che se anche perdi di fronte a idee contrapposte deve rimanere dentro e fare quello che dice la maggioranza. I vecchi partiti in questo restano come vecchie chiese, ti chiedono di restare dentro anche se sbagli e cospargerti il capo e metterti in ginocchio perché vince il Papa capo del partito. Il problema è che se rinunciare alle idee proprie è il segno per stare in un partito, quel partito non ha le idee giuste e bisognerebbe ragionare così nella vita. Dopodiché è anche vero che dicono parli tu, che intanto da fuori dici l'offerta nuova, la società civile, e però come vedi poi sono loro e Grillo. Che devo dirvi? Può essere che sia così, può essere che sia così. In definitiva è solo Grillo che rappresenta la spallata al momento, è così. Se poi finisce veramente che in Sicilia PD, UDC e Crocetta seducono Grillo, beh, la novità di Grillo è bella che è finita, questo io lo dico con grande sincerità, ma comunque questo può essere che sia solo primo condizionamento delle prime ore successive al voto. E questa dichiarazione data a Crocetta di farsi sedurre dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle sia un errore, per così dire. Altrimenti vedremo, che volete che vi dico. Titolo al Fatto, arriva Grillo, panico nel palazzo, ma se finisce che dopo poche ore il fatto che le elezioni le ha vinte il candidato PD-UDC che non ha la maggioranza all'assemblea regionale di una regione tecnicamente fallita dal punto di vista finanziario, ci si inizia già a scambiare scambi di effusioni e di amorosi sensi, beh, che sia panico nel palazzo, come dicono gli amici del Fatto, per una volta non mi pare proprio, per così dire. Allora, di fronte a tutto questo sfondo e di fronte a torneremo presto, ve lo sto sempre promettendo, poi molti ascoltatori dicono no, resta a occuparci dei problemi del giorno, tanto l'Europa ce ne dovremo occupare per forza più avanti, quando tornerà ad occuparci di noi italiani, anche questa è una buona pista da seguire. Noi oggi ci concentriamo come sempre a dar voce a chi testimonia con storie di rottura, di continuità di impresa, purtroppo di nuova disoccupazione, di disperazione di fronte alle pretese amministrative dello Stato, alle tasse eccetera, quale sia poi ciò che il processo che continua ad andare purtroppo in onda tutti i giorni che Dio manda in terra in questi ultimi anni, mentre la politica è tutta presa dalle sue altre cose. Quindi anche oggi vi proponiamo 4 storie, vi proponiamo di telefonare, di farci sentire che cos'altro pensate di questo come della politica. Telefonate libere oggi, potete chiamare al 349-238-6666 per i messaggi, numero verde 800-24-0024. E cominciamo con le testimonianze di oggi, con quella di Mauro Rovelli. E la testimonianza di Mauro Rovelli viene appunto da una lettera che ci ha mandato a Disperati Mai. L'indirizzo, continuo a dirvelo, disperatimai@radio24.it, che non ha mai finito di raccogliere le vostre lettere, quindi continuate a scrivere perché come vedete io vado avanti nel darvi voce. E purtroppo questa lettera che ci ha inviato Mauro Rovelli ci diceva che mercoledì 17 ottobre il sacrificio monzese, di cui adesso ci parlerà, di cui ci descriverà la storia, aveva depositato la richiesta di concordato preventivo. Buongiorno a Mauro Rovelli. Buongiorno a tutti voi. Allora, come si è arrivati a questo concordato per il sacrificio monzese? Oh, si è arrivati con un cammino lungo quanto la crisi, almeno. Come ha letto nella mia lettera, probabilmente tutto si lega al fatto che a livello imprenditoriale sono stato un po' un pollo con le banche, in quanto mi sono sempre fidato dei rapporti umani e non dei cartacei. Fondamentalmente abbiamo iniziato nel 2003 a puntare un grossissimo investimento che poi era stato fermato da varie vicissitudini familiari. Siamo arrivati finalmente nel 2010 a poterlo effettuare, Abbiamo chiesto allora appoggio a delle banche per poter far fronte a una crescita che prevedevamo del 20% sui ricavi. Nel 2010 ci sono state date ampie garanzie dalle banche più importanti. A fine 2011, quando abbiamo battuto cassa, ci siamo sentiti dire che il mondo era cambiato. Nel 2011 abbiamo fatto un incremento di fatturato dell'8%, stavamo viaggiando nei primi mesi di quest'anno intorno al 13%, ci sono venuti a mancare i fondi. E purtroppo credo che in questo sistema senza le banche sia impossibile andare avanti e abbiamo dovuto arrenderci. E davate, nella lettera diceva che nel 2011, quando appunto il fatturato era di 8 milioni e mezzo di euro, davate lavoro a oltre 40 dipendenti. Esatto. Che non sembra proprio mille anni fa il 2011, insomma, visto che poi erano in incremento queste cifre. E purtroppo sì. Infatti è uno dei problemi maggiori che ho adesso, è quello di cercare in qualche modo di vedere di, diciamola in brutti termini, se è possibile piazzare un po' delle mie maestranze. Oltretutto sono 40 dipendenti, ma c'erano anche una quindicina di agenti di commercio che a tutti gli effetti sono da considerare come dipendenze. Senta, la questione è, per far capire, perché voi eravate nel settore delle... è un'impresa che nasce negli anni 50 nel settore della cartotecnica, e questo investimento che voi realizzate, sul quale poi, dovendo rientrare dai prestiti, da quello che ho capito, è lì che succede il disastro, era un investimento per fare un impianto di produzione di booster per le stampante laser, che sarebbe stato tra i più veloci al mondo addirittura. No, non tanto per le stampanti laser. Le stampanti laser era un prodotto che avevamo già studiato e brevettato. Questo era un potenziamento della produzione di buste da lettera, sì, quelle che usiamo normalmente per le poste, diciamo. Sì. C'era la prospettiva, secondo noi, di crescere sul mercato europeo, e in effetti il fatto che stavamo crescendo nel 2011 del 7%, avendo sfruttato l'impianto a partire da settembre, e la prospettiva comunque di una crescita a due cifre nel 2012, vuol dire che potevamo aver ragione. Purtroppo l'investimento costava circa 2 milioni di euro, ma al di là di quello era tutto il corollario finanziario, per cui l'approvvigionamento di monti merci maggiori, esporsi al credito coi clienti, perché comunque, anche se il nostro settore è un settore dove grossi fallimenti non ci sono stati, i tempi di pagamento si sono allungati per tutti, sia in Italia che all'estero. Questo, giusto per darle una cifra indicativa, ci è costato con le banche nei primi sei mesi del 2012 quasi 80.000 euro al mese di spese di anticipazioni, portafogli, fatture. 80.000 euro al mese. Esatto, perché comunque crescendo e non concedendoci plafond o chirografari, siamo dovuti finire sul breve e non riuscivamo neanche a spendere tutte le RIBO, le fatture estere che avevamo in mano. Senta, le chiedo una cosa, la vostra è una classica impresa familiare e negli anni 2000 è un susseguirsi, come può capitare quando le famiglie si concentra, per così dire, il lutto, il dolore, la moltiplicazione, scompaiono molti membri della famiglia, perché lei ci ha raccontato la madre, il padre, suo fratello, dopodiché il suo primogenito, tra malattie e disgrazie. La domanda che le faccio è, guardando adesso, poi le faccio un'ultima domanda su dove in realtà si può immaginare di portare questo concordato, se c'è una storia di rinascita secondo lei e a che condizioni per il sacrificio monzese. Ma nella realtà, quando è stato così duro il colpo di maglio delle sventure e delle morti in famiglia, questo forse aiuta a capire anche le vostre difficoltà come pura azienda familiare di fronte al venir meno del padre, di suo fratello, di suo figlio, eccetera. Questo ha avuto un ruolo, insomma, nelle scelte che avete compiuto. Lei ha detto: sono stato un po' un pollo a fidarmi delle banche, anche nel prendere forse con superficialità alcuni degli impegni che avete preso, lei diceva, facendo prevalere le parole, le strette di mano sulle parole scritte e stampate con le banche. Lei che dice? Ci ho pensato molto, onestamente, soprattutto su due punti della mia vita. Noi eravamo pronti a effettuare questo investimento nel 2003, quando è mancato mio padre, e forse lì dovevo avere il coraggio di investire comunque. Il punto nevralgico di crisi è stato nel 2009, quando ho perso mio figlio, perché comunque, vedendola cinicamente, la perdita di una madre e di un padre possono fare parte dell'ordine delle cose. Invece un figlio? Un figlio, ed è forse il motivo per cui io vi ho scritto alla fine, perché non era neanche tanto per parlare di me, ma per parlare dei disperati come me. Ci ho pensato molto, però fermare allora l'attività voleva dire chiudermi in me stesso, e in quel momento probabilmente non ero all'altezza di poter reggere. E poi resta comunque il fatto che in un'azienda piccola si trattava di dire volontariamente: lascio a casa 40 dipendenti, 35, quello che potevano essere allora. Questo credo che mi abbia aiutato comunque, il sostegno di tutte le maestranze e di tutte le persone che avevo vicino a superare un momento così difficile e a togliere in alcuni momenti della giornata il mio pensiero da quello che era successo a mio figlio. Mauro, io ti posso solo dire abbracci su questo, ma questo concordato dove andrà a parare? Risorge il sacrificio? No. Ti dico, visto che mi hai dato del tu, un'ultima cosa. Io credo che sia stata un'esperienza bellissima quella che ho potuto vivere, compreso anche il concordato, perché comunque è la fine di un percorso, certo, in cui sono cresciuto. Certo. Non mi vergogno e non mi lamento di aver lavorato in tante situazioni, anche 16 ore al giorno, anche perché ero qui con tutti gli altri a lavorare. Credo che però un impatto del genere non lo posso sopportare, un secondo errore sarebbe troppo. E questo io lo capisco, del resto le storie di impresa sono fatte di nascite, di affermazioni, di successi, di dubbi, di tensioni, di rischi assunti, e sono fatte anche della maniera onesta, trasparente, con cui Mauro Rovelli ci ha raccontato come si possa arrivare poi a un concordato alla fine di un percorso di impresa. L'essenziale, scusate se mi permetto di chiosare, nell'abbraccio che mando Mauro Rovelli e ai suoi dipendenti e collaboratori alla chiusura della storia del sacrificio monzese, e non perdere l'idea che un'impresa che chiude debba, nella sua esperienza, anche nei suoi errori, poi rivivere, rimoltiplicarsi, riprendere energia in un'idea di 1, 5, 10 imprese che nascono. E questo è uno dei punti di forza da sempre del nostro paese. Ma andiamo alla seconda storia. Ma attenti che a volte questo paese riserva un ambiente così ostile, trattamenti così amari da parte non solo delle banche, ma dello Stato, delle tasse, della pubblica amministrazione, della giustizia, che uno guarda il resto del mondo e dice: però perché? Altrove non è così. Altrove è un ambiente molto diverso, molto più conveniente. Riprendete quelle 4 pagine della stampa di ieri in cui si dimostra quantitativamente come le imprese italiane che riescono a fare margini utili, malgrado tutto questo, malgrado il costo dell'energia, dello Stato, delle tasse e così via, nella media degli altri paesi europei avrebbero risultati di 2/3 migliori. E allora c'è chi fa questa comparazione e dice: sapete che c'è? Ma io perché devo rimanere qua? Ma perché devo stare in questo posto che mi fa la guerra e che mi dice: preferisco che tu chiuda piuttosto che offrirmi condizioni migliori come altri paesi qui vicino? Ecco, questa è la seconda storia. Stiamo parlando del salumificio Luigi Vida di Torreano, quindi stiamo parlando, Torreano è vicino a Udine, Friuli, salumificio che ha 30 addetti, 10 milioni di fatturato, stiamo parlando di una produzione di salumi cotti e crudi tipici, di elevata qualità, bio, quindi insomma Il classico, la classica azienda del medio del made in Italy dal punto di vista alimentare. Ecco, e abbiamo con noi il suo contitolare, Christian Vida. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giordanino. Il quale è tentato dal dire, ma io perché devo rimanere qua? Ed è tentato di andarsene dove, col salumificio? Allora, diciamo che più che essere tentato di andarmene, sono tentato di pensare a fare qualcosa anche fuori, perché chiaramente Italy, Made in Italy, la mia azienda, come ho visto, esiste ormai quasi da 50 anni, l'ha fondata mio papà e mia mamma, e pensare di andare proprio, abbandonare l'Italia, diventa psicologicamente impossibile. Economicamente potrebbe essere più semplice, ma psicologicamente, per chi ha il Made in Italy nel cuore, come noi nell'alimentare, chiaramente diventa decisamente difficile. Certo è che da due anni e mezzo, ho cominciato a internazionalizzare e quindi a muovermi, a essere io che esco, a vedere cosa succede nel resto del mondo, perché prima di tutto bisogna farsi le idee, prima di pensare di cominciare a vendere. E mi accorgo che, se parliamo di vecchia Europa, il mercato diventa quello classico dove io produco in Italia e posso serenamente andare a vendere in Germania, in Austria, piuttosto che in altri posti. Se parliamo invece dei nuovi paesi emergenti, quelli in cui il mondo corre, al contrario di noi che siamo fermi, chiaramente ci accorgiamo che questi qua non gli basta che tu vada lì a vendere il prodotto, porti via ricchezza e quant'altro. L'hanno capito e hanno detto: no, ma qualcosina ci devi portare anche tu, che sia know-how, che sia un centro di distribuzione, che sia una piccola trasformazione, ma comunque noi vogliamo lavoro e vogliamo know-how. E quindi questi paesi costantemente ti tentano, sia sotto il profilo, diciamo, di quello che possono allettare tra imposte, tra esenzioni e tra l'altro, oppure ti tentano dicendo: però guarda, se ci dai una mano sarà tutto più facile riuscire a venire a lavorare qua o a vendere qua. Quindi questo è quello che sta succedendo. Senta, ma secondo lei, perché io spesso ho dato delle cifre anche dall'inizio dell'anno di questo fenomeno di competizione tra ordinamenti, che secondo me, io non solo li capisco, ma fanno bene a venire a offrire alle imprese italiane condizioni più favorevoli, fiscali, amministrative e così via. E questo fa il Canton Ticino, lo fa la Carinzia, l'Austria, lo fa la Slovenia, lo fa la Serbia. Ma nel suo ambiente, intorno a lei, in Friuli, da quelle parti, quindi zona di confine classica, quante storie di questo genere ha sentito da questo inizio d'anno? Cioè, quanto secondo lei è rilevante e diffuso il fenomeno di chi dice: ma qui non si può più stare in queste condizioni? E soprattutto, è giusto secondo lei che poi qualcuno dica: ah, siete antipatriottici? Perché io non me la sento mai di ragionare così. Io penso che le imprese debbano andare dove c'è il miglior vantaggio. Fare l'imprenditore significa dover arbitraggiare ogni secondo qual è il miglior rendimento di tutti i fattori della produzione, dal lavoro al capitale agli intangibili. Io penso che in questo consista il difficilissimo mestiere dell'imprenditore, anche se c'è chi non lo capisce. E quindi io non me la sento mai di dire: no, le accuse di antipatriottismo sono fondate. Io penso che i veri antipatrioti siano quelli che impediscono all'Italia di avere possibilità di far rendere i denari, il lavoro, la testa, le idee. Lei come la vede invece? Quanti intorno a lei se ne stanno andando o hanno le sue stesse idee, e che cosa vi dicono gli altri? Guardi, parto al contrario. L'assurdo di andare all'estero è trovare la considerazione che hanno nei confronti dell'Italia altissima. Siamo, se posso dire, siamo molto più antipatriottici stando qui in Italia che non andando all'estero, perché quando vai all'estero ritorni a essere orgoglioso di essere italiano. Sembra incredibile, ma anche se abbiamo fatto tutte, se posso permettermi, le porcate che sono previste in qualsiasi albo delle porcate, quando andiamo all'estero noi restiamo italiani. Non le parlo nell'ambito alimentare, chiaramente, dove noi siamo italiani, siamo nel cielo rispetto al resto del mondo, che non è in terra ma è sottoterra. Devo dire la sincera verità che, uscendo da 2 anni a questa parte, ho riscoperto il piacere di essere italiano, che invece stando qui in Italia avevo un po' perso, le devo dire sinceramente, quindi mi scuso della risposta al contrario. No, ha fatto benissimo. Ecco, le dirò che nell'arco degli ultimi anno e mezzo, due, purtroppo io l'ho manifestato tante volte quando ho avuto incontri in Confindustria con i politici e quant'altro, le idee sono sempre più spinte verso questo, perché uno, come ha detto lei, siamo in terra di confine, siamo molto vicini, e le premetto che comunque il Friuli Venezia Giulia, stante un po' la sua specialità, stante un po' degli apparati che cercano di starci abbastanza vicino, ma che sono impediti nello starci vicino, perché devo dire la verità, abbiamo delle direzioni anche regionali che capiscono le problematiche, ma che non possono muoversi perché sono ingessati dalla normativa, questa è la realtà. E le dirò che sinceramente sono molte le aziende o che hanno già messo delle produzioni fuori, e l'assurdo è fuori significa andare in Carinzia, dove la tassazione non è molto diversa dalla nostra, ma la realtà sono le condizioni di lavoro, la realtà che aziende aprono da quando decidono di dire ok, costruiscono lo stabilimento, quando cominciano a produrre passano 10 mesi. La realtà è che il mercato del lavoro è un mercato flessibilissimo. In 6 settimane io posso sostituire una mia risorsa che magari non va bene a me, ma può andare bene a qualcun altro, mentre qui in Italia, lei sa benissimo, dopo anche l'ultima riforma, le risorse non si sostituiscono più. Lei, una volta che ha assunto un dipendente, il dipendente ha solo diritti e i doveri non esistono più. E le assicuro che io, che sto lavorando anche in collaborazione con aziende simili a una mia in Austria, mi accorgo anche della flessibilità che c'è nel lavoratore, nel senso che il lavoratore si adatta a cercare il lavoro, poi dopo cerca di trovare il lavoro che gli piace, ma si adatta. Quindi a fronte a questo la realtà è proprio, non si va a cercare magari paesi, come ha scritto nell'articolo il suo collega, il discorso della Serbia, dove lì invece ci sono tutto un meccanismo di attrattività perché loro hanno bisogno di avere know-how, ma ci sono paesi come Austria e Svizzera che veramente le offrono, a pari normative e quant'altro, una sicurezza, nel senso che devi pitturare i muri di bianco e tutti sappiamo che faremo i muri bianchi, non è come qua che purtroppo ogni porticello decide il colore del muro e tu rischi di avere 5 colori diversi all'interno dell'azienda perché nessuno ha deciso qual è il colore giusto, e dalle cose più stupide alle cose meno stupide si va avanti così, quindi veramente ci si trova di fronte a delle difficoltà che all'estero sono già state superate e che rendono sempre più forte l'attrazione. Le dirò che molte aziende stanno facendo questi ragionamenti, per fortuna sono ragionamenti come le dicevo il mio, cioè non voglio lasciare l'Italia completamente per andare all'estero, però certo è che se oggi devo fare un programma di investimento, il dottor Rovelli prima di me è stato abbastanza chiaro nei confronti delle banche, della situazione del credito, è assurdo che la stessa banca che qui in Italia ti dice di no, c'è il rischio che vai in un paese straniero e ti dice di sì. Perché succede, succede anche questo, cioè, sono delle cose che sono assurde, ecco. Io ringrazio Christian Vida e auguro a tutti coloro che lavorano e cooperano col Salumificio Luigi Vida miglior successo anche all'estero, perché bisogna farle vivere le imprese italiane, e non vi sorprendete poi se di fronte a questa amara realtà economica, ve lo ricordo a tutti, le elezioni regionali in Sicilia hanno visto i seguenti risultati 2008-2012, il PD ha perso il 49% dei voti che aveva nel 2008, l'UDC ha perso il 38,4% dei voti che aveva nel 2008, il PD ha perso il 72,6% dei voti che aveva nel 2008, la sinistra antagonista il 55,3% dei voti che aveva nel 2008. Ma di che ci stupiamo se la realtà è questa? Conta questa realtà, e questa realtà porta la gente ad andarsene, chi può, e chi resta a votare Grillo in assenza di meglio, ovviamente. Abbiamo delle storie adesso ancora più dure, a dire la verità, ancora più dure. Cominciamo con quella di Angelo Giovanni Petrella, e la lettera di Angelo mi ha lasciato, devo dire, senza parole, sono di quelle che ti davano il fiato, perché sono poche righe che ti colpiscono la bocca dello stomaco e nel mio caso mi fanno fermare per un bel po', che mi fanno prendere la testa tra le mani, mi fanno guardare il computer e mi fanno pensare che tutto quello che faccio è completamente inutile, a dire la verità, perché è chiaro che ce ne sono tante, è la casualità che porta una voce, quella di Angelo Giovanni Petrella, a incrociare i miei occhi sull'indirizzo mail di Sperati Mai, è la pura casualità, è una storia tra tante che parlano allo stesso modo, ed è completamente inutile che io poi, come ovvio, mi fermi e trasalga, perché mi sento anche un ipocrita a farlo, dico non avresti bisogno di leggere, dovresti sapere, ma come ovvio poi i nomi, i volti, le voci concrete danno un diverso spessore al dramma che ci circonda, di fronte al quale restiamo indifferenti, lasciandolo al di là delle nostre case, delle nostre aziende, delle nostre vite, dei nostri lavori, perché quello che conta è il contatto che rompe il gelido muro dell'indifferenza, ed è il contatto ciò che mi lascia senza parole, perché non lo trovo nelle parole e nei gesti di nessuno dei componenti neanche di questo governo tecnico, da cui pure me lo sarei aspettato, perché da Berlusconi e gli altri chiusi dall'Italia nei loro palazzi, nelle loro vicende diurne e notturne, non mi aspettavo più niente. ma che dei tecnici riescano solo a dire che i ragazzi sono schizzinosi, esigenti, perché chissà cosa si aspettano. Gli esodati è un pasticcio quando c'è un problema che ha contribuito ad atterrire gli italiani insieme all'IMU, sono quelli i due problemi che hanno atterrito la gente, e che non si riesca mai a toccare la corda vera dell'empatia umana. Ecco, questo per me non solo è avvilente, è proprio economicamente sbagliato, oltre a testimoniare di una umanità che se n'è andata evidentemente, che non fa più parte della vita pubblica. E allora la lettera di Angelo Giovanni Petrella è questa. Io, prima di dargli la parola e ringraziarlo, ve la leggo perché sono poche righe. Mi chiamo Angelo Giovanni Petrella e chiedo aiuto. Ho 3 bambini, una di 13 anni, un'altra di 11, un bambino di 6 anni. I bambini li sto mandando a scuola senza libri. Sono disoccupato da 6 mesi, abito in affitto e non potendo pagare l'affitto, prima o poi, purtroppo, mi daranno lo sfratto. Io non riesco a trovare lavoro. Dove vado a chiedere lavoro mi dicono non c'è possibilità di lavorare per via della crisi. Vi chiedo, per favore, ascoltatemi. Allora, aspettate, perché ho premuto un tasto che non avevo visto e quindi per un secondo non l'avete sentito. Allora, Angelo Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, nel frattempo a che ce l'hai mandata? È cambiato qualche cosa rispetto alla tua condizione lavorativa? Purtroppo non è cambiato niente. Io veramente sono molto, la parola del vostro programma lo dice, sono disperato. Io è da 6 mesi che mi trovo disoccupato, ho 3 bambini come ve ne avete detto dalla mia lettera, e è diventato oggi come oggi, purtroppo dirlo, una barzelletta cercare lavoro, perché dove vado a chiedere lavoro? Praticamente i datori di lavoro, le persone incaricate nelle ditte dove vado, nei ristoranti, mi dicono ma quale lavoro? Dov'è questo lavoro? Non c'è niente. Tu dove quindi vivi? Tu dove vivi? Io abito a Riposto, provincia di Catania. E nei lavori che cerchi, come direbbero i componenti del governo, sei schizzinoso, chiedi lavori troppo impegnativa o chiedi di tutto? No, guarda, io sarei disposto a fare qualsiasi lavoro, basta portare a casa lo stipendio per poter tirare avanti i 3 bambini che ho. Io faccio sia cameriere, ho fatto cameriere, come aiuto pizzaiolo, ho lavorato anche in falegnameria, quindi potete anche vedere che ho anche saltato da un lato all'altro, basta che trovo lavoro e purtroppo non sto trovando niente. Ecco, io approfitto a fare un appello, se qualcuno che sente la radio e ha bisogno di un operaio, di un autista, perché ho fatto anche l'autista, mi dia la possibilità di poter continuare in questa strada in salita che è veramente troppo ripida. Senti, prima che cosa hai fatto? Qual è stata la tua ultima occupazione? Sì, ultimamente ho lavorato in una falegnameria, sono stato lì per 4 anni, quando io sono entrato lì eravamo 8 operai, a man mano passavano gli anni, c'era quella forbice che tagliava, eravamo 6, 5, 4 e ultimamente eravamo in 3 e purtroppo hanno mandato anche a me, quindi è rimasto a lavorare padre e figlio in questa falegnameria e io sono dovuto, cioè mi hanno mandato via perché purtroppo non c'era nemmeno quello che ultimamente stavamo facendo, diciamolo volgarmente, arrosti e mangia, stavamo facendo poco, ecco, e purtroppo hanno mandato anche a me a casa. Senta, non c'entra nulla, ma per curiosità, lei è andato a votare al regionale domenica? Guardi, io gli dico sinceramente, non ho votato. E io posso dire che la capisco, perché a un certo punto uno dice... Non ho votato, sono molto deluso, perché guardi, gli dico un'altra cosa, io da giugno vado a parlare dal sindaco della mia città. Prima ho dovuto fare un appuntamento che mi hanno detto che magari 10-15 giorni sarei contattato per parlare col sindaco e non è successo mai questo. Dopo un mese avvicino al comune e aspetto che il sindaco esca per potergli parlare, le ho comunicato la mia situazione, perché a me quello che mi preoccupa adesso abbastanza, veramente sono preoccupato, è per l'affitto, non vorrei trovarmi in mezzo alla strada con 3 bambini. Mi ha detto che dovevo andare dall'assistente sociale. L'assistente sociale mi ha detto che per poter avere un aiuto economico o un aiuto, un contributo per poter sollevarmi in questo momento, dovevo avere o un malato terminale a casa o un bambino malato disabile. Io le ho detto grazie a Dio non è questa la mia condizione, però comunque sono messo male, ecco. Allora, Angelo, Giovanni, io spero che se qualcuno ci sta ascoltando dalle parti di Riposto e ha qualche idea per Angelo Giovanni, in realtà è per Angelo Giovanni, ma perché casualmente abbiamo scelto la sua, perché ce ne sono tante purtroppo di disoccupati con carichi di famiglie numerose che non sanno dove sbattere la testa, ce lo segnali e noi mettiamo in contatto. Intanto sì, prego, dimmi. Volevo dire, io sono un cittadino italo-venezuelano, io quando sono rientrato in Italia nel 2004 sono rientrato, io mi ero trovato con un giardino di Eden, veramente, letteralmente lo dico. Cioè avevi l'impressione, venendo dal Venezuela, che l'Italia fosse una terra di opportunità? Ma molto, infatti sono venuto da solo, ho lavorato un anno, ho portato a mia moglie dopo che mi ero sistemato, vedevo la situazione, si stava bene, si lavorava, c'era lavoro, e oggi come oggi sto praticamente sconoscendo questa terra. Io sto sconoscendo la mia Italia, ecco, quella terra che io fino a otto anni fa, non stiamo parlando di 40-30 anni fa, io sto parlando di 8 anni fa, non è più quella che io quando sono rientrato in Italia nel 2004 mi ero trovato, ecco. Quindi naturalmente, in quanto anche venezuelano, spagnolo perfetto, infatti si capisce, sì, anche da come parli, perché sconoscere è un classico, è un misto per così dire. Allora, Angelo Giovanni, fammi sapere come vanno le cose, continua a scrivermi che noi ti rispondiamo e intanto un abbraccio. Ti ringrazio per figurati. La voce che avete, no, che avete fatto dare questa secondo voce, me è tutto quello che possiamo fare purtroppo, però almeno ci proviamo e adesso noi andiamo a strade, però intanto io saluto, perché ci abbiamo ancora un ospite che ci racconta un'altra storia dura, tosta, è una avellinese che vive ad Arezzo, si chiama Fausto Denunzio. Buongiorno Fausto. Buongiorno dottor Giannino. Ed eccoci, la solita voce calda e contemporaneamente disperata di questa fredda disperazione di una canzone che indicava la fine di un'epoca. Dovremmo ripercorrere nelle parole, perché era veramente la fine di un'epoca. I valori che vengono intaccati nel testo di questa canzone sono il crollo della civiltà borghese di fronte a quello che avveniva e sarebbe stato il Vietnam per una generazione di giovani americani, ed è tutto paragonabile al crollo di continuità, di valori, la curva demografica che indica nessuna fiducia nella famiglia, la dispersione di italiani che vanno all'estero sono migliori per non tornare, le imprese che sono tentate da trasferirsi si trasferiscono, da quello che sta succedendo in questi anni in Italia. E anche per questo che io la tengo metaforicamente questa canzone. Allora Fausto Denunzio ci ha scritto una lettera, è un imprenditore, l'impresa di costruzione fondata dal padre, l'ha ereditata anni fa, nell'87, quando il padre muore, deve interrompere gli studi Fausto, e dopodiché nei pasticci dell'Irpinia Post Ricostruzione si trova a sostenere dei mutui ipotecari pur di salvare case, ci scrive, e iniziano grandi problemi con le banche, grandi problemi che ci descriverà, perché i tassi applicati ai mutui sono tassi usurari praticamente che si trova a pagare. Si è trasferito in Toscana per tentare di, con la sua azienda in Toscana, per tentare di recuperare quanto prima posizioni bancarie, però anche lì le cose non stanno andando bene. Questo in estremissima sintesi, Fausto, è così? Sì, diciamo che sostanzialmente è così. Ora, ripartendo un po' dai mutui degli inizi anni 90, purtroppo ho avuto anche la sfortuna di trovarmi in un periodo in cui i tassi erano altissimi, per cui le lascio immaginare che chiaramente anche con qualche rata di mutuo che veniva pagata in ritardo, chiaramente dal 16-17% si saltava al 21%, e diciamo già qui ho iniziato un attimino, poi chiaramente con grossi sacrifici siamo riusciti a portarli a termine, chiaramente rimettendoci molta della mia vita, perché chiaramente nella lettera le ho scritto anche che ho avuto un po' di problemi di salute, se purtroppo sotto mano, sì. Più che altro già da lì iniziavo a capire che purtroppo credo che viviamo in una società nella quale ci prendono continuamente in giro. Mi riferisco a degli episodi verificatosi in quegli anni, e quando mi sono rivolto oltre a una serie di istituzioni per chiedere più che altro un consiglio oppure qualche soluzione un attimino meno indolore, e mi sono rivolto all'Adusbef, quindi insomma non le dico quello che ho passato, perché chiaramente mi hanno fatto girare mezza Italia tra vari legali, non le sto qui a fare i nomi, senza risolvere un becco di nulla. Cioè lei di fronte a questo problema non ha trovato né nelle associazioni d'impresa né in nessuna degli sportelli, per così dire, su al design pubblici che offrono servizi di consulenza o servizi di tutela dei consumatori eccetera, mai un sostegno adeguato? Ho trovato solamente gente che mi parlava di questo problema, dice troveremo delle soluzioni adatte e adeguate al tuo problema, ma poi alla fine si sono verificate delle bolle di sapone in effetti, quindi con ulteriori sborsi di soldi, chiaramente pagando i vari legali che di volta in volta si sono presentati, quindi già qui c'è stato una prima analisi di come funzionano le cose in Italia, insomma, quindi... Senti, nella lettera ci dicevi appunto che dopo un infarto o un tumore, come se non bastassero, perché quando ci sono i problemi a volte non ce li neghiamo per nulla, e dopo il tentativo anche in Toscana, alla fine sei tornato ad Avellino e sei iscritto alle liste protette per l'impiego. Mi sono iscritto alle liste, ma non so con quali risultati, perché poi diciamo ho sentito qualche ente in giro, già il fatto di dover fare un curriculum, oltretutto non so manco che scrivere in questo curriculum perché ho fatto semplicemente e solamente ed esclusivamente il mio lavoro, probabilmente lo riesco a fare anche abbastanza bene, però praticamente non so quante opportunità mi possono verificarsi con questa iscrizione, quindi sono iscritto giusto perché sono in questo momento disoccupato e chiaramente mi hanno consigliato di iscrivermi in quel modo perché oltretutto c'è un grado di invalidità abbastanza notevole. Senti, la domanda complicata è, ma in queste condizioni, dopo questa storia e questa fine che ha fatto l'impresa che aveva fondato tuo padre e che tu hai ereditato, sei ancora ottimista? Ce la fai a tirare avanti? Allora, l'ottimismo sta svanendo chiaramente nelle mie condizioni. C'è poco da essere ottimisti. E per diciamo la cosa che più mi sta ferendo in questo momento, perché l'ottimismo rivolto alla mia attività, e non ultimo dove vivo a Subiano, in provincia di Arezzo, il comune, per dirle un esempio di quello che si sta verificando, è tra i più virtuosi d'Italia, avendo accumulato un po' di risparmi. E il sindaco, oltretutto il mio ottimismo era quello di pensare che con questa eventualità, cioè di essere stato un comune virtuoso, ci fosse la possibilità di sbloccare dei fondi per lavorare, per fare delle opere pubbliche, se non che ha avuto una lettera, mi chiamò qualche tempo fa dicendomi che ha avuto una lettera dal governo in cui gli impedivano di movimentare questi soldi nonostante fosse stato un comune virtuoso perché non si sapeva che fine dovessero fare e quindi anche lì insomma è tutto un problema. E la famiglia in questo? La famiglia, io diciamo la fortuna in questo momento è di non avere figli, c'ho mia moglie che mi segue dappertutto, poverina, insomma ha passato insieme a me molti momenti brutti, molti momenti belli, comunque continua a seguirmi e niente. E fortunatamente abbiamo una famiglia allargata alle spalle che ci sostiene in questi momenti. Allora Fausto, mi tocca dire che purtroppo sentirti con questa conclusione ci richiama al tragico problema dell'Italia, perché vedete, il debito pubblico, se cambiamo politica e ci mettiamo e scegliamo gente capace, lo possiamo affrontare anche tagliando le spese e le tasse. Ma quando un paese vede di fronte ai guai che attraversa, si vede costretto a dire, come ci ha detto Fausto, che l'ha detto mica perché è davvero contento di non averlo, ma dice: ma io per fortuna non ho figli e per fortuna ho alle spalle una famiglia allargata il cui patrimonio mi può sostenere. Questo descrive perfettamente le condizioni di un paese finito. Finito, perché ha solo prospettive di consumare ciò che le generazioni prima di noi ci hanno dato. E si può solo compiacere purtroppo di non avere generazioni di fronte a noi, perché non siamo nelle condizioni di sostenerlo. Quando un paese è finito così, veramente torna alle condizioni che te ne puoi solo andare. Io non voglio credere e rassegnarmi che questa sia la condizione alla quale bisogna rassegnarsi. Quindi a Fausto dico, è andata storta fino adesso, non demordere, continua a scriverci. Noi continueremo a fare il nostro mestiere con ottimismo, pensando che puntate come queste servono più, molto più che a parlare di politica, molto più che a parlare del futuro, delle promesse dei partiti. A domani, grazie a tutti.